Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Medicina. Ci sono 10.783 professori, di cui 5.008 hanno un altro professore con lo stesso cognome, 46%. Legge. Su 5.144, 1.819 hanno lo stesso cognome, 35%. Biologia. Su 5.140 professori, 1.548 hanno un altro professore con lo stesso cognome, 30%. Ingegneria civile e architettura. Su 3.836, 1.040 hanno qualcuno con lo stesso cognome, 27%. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Lo avete appena ascoltato dalla viva voce di chi ha redatto la ricerca. Secondo Stefano Allesina, docente all'Università di Chicago, gli atenei italiani sono un vero e proprio formicaio di parenti. Non solo dunque, come suggeriscono le statistiche, un covo di gerontocrati, ma quando anche compare qualche giovane, non è raro trovarlo imparentato col dinosauro di turno. Gli outsider innovativi risultano essere troppo spesso la minoranza. Oggi dedichiamo la nostra puntata ai tanti giovani professori e ricercatori di talento, possibilmente non raccomandati, vi portiamo a respirare un po' d'aria salubre. Ci trasferiamo in California per un'altra puntata d'eccezione. Vi racconteremo la storia di una dei due scienziati italiani divenuti celebri per essere stati inseriti dalla rivista Popular Science nella classifica dei 10 più promettenti under 40 d'oltreoceano. L'Italia che ho lasciato 11 anni fa e che seguo da distanza sembra essere più ancora soffocata da clientelismi e favoritismi e un senso di stagnazione pervasa da rassegnazione tra i giovani. Chiara Daraio, 33 anni, è professore ordinario di ingegneria aeronautica e fisica applicata al prestigioso Caltech di Pasadena. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. Il 28% dei giovani in Italia è senza lavoro, tra quelli che ce l'hanno quasi la metà, il 46,7% sono precari. È il preoccupante quadro tracciato dall'OCSE, secondo cui la crisi ha avuto un forte impatto sulla situazione lavorativa dei giovani. Il tasso di disoccupazione nella fascia 15-24 anni è cresciuto di oltre 9 punti percentuali al 27,9% e la percentuale di precari è aumentata. Il mercato del lavoro italiano sta diventando più segmentato, con lavoratori in età matura in impieghi stabili e protetti e molti giovani senz'altro sbocco immediato che posti più precari, dice l'OCSE. Ampio spazio oggi a formazione e ricerca, lo avete ascoltato poco fa, il professor Stefano Allesina, docente a Chicago, ha stabilito, studiando la frequenza dei cognomi, le facoltà universitarie dove è più diffuso il nepotismo: medicina, legge, biologia, ingegneria industriale, geografia e pedagogia. Il fenomeno della raccomandazione appare più diffuso a sud e nelle isole. Per Allesina, tra le conseguenze di questo dilagante nepotismo c'è la fuga dei cervelli, una vera e propria emorragia. E a luglio un'analoga ricerca della Fondazione Rodolfo De Benedetti, legami familiari e accesso alle professioni in Italia, ha dimostrato quanto gli ordini professionali siano estremamente permeabili alle parentele, alla faccia del merito. Michele Pellizzari, docente dell'Università Bocconi e coordinatore della ricerca. Le barriere all'ingresso non operano nello stesso modo per tutti, nel senso che è molto più difficile, per esempio, superare l'esame per chi ha un cognome che è poco frequente nell'albo locale. Quindi i parenti di qualcuno hanno più facilità a entrare in una professione, è statisticamente provato? Questo è statisticamente provato, capire perché questo avviene è molto più complicato, perché può avvenire o perché avere dei parenti già in una professione mi aiuta a diventare a mia volta un bravo professionista perché imparo da loro, oppure possono esserci forme di nepotismo, corporativismo, eccetera. Diverse evidenze empiriche e anche aneddotiche che ci segnalano che forse il secondo caso è quello più rilevante. In quali professioni il fenomeno, diciamo pure nepotistico, è più frequente? Noi abbiamo prodotto evidenza empirica per gli avvocati, dove notiamo una correlazione abbastanza forte tra la frequenza del cognome nell'albo e l'età in cui si ottiene la qualifica, quindi si supera l'esame. Una cosa simile vediamo per i commercialisti, per i farmacisti, per i notai. Questa correlazione col cognome in realtà c'è un po' per tutte le professioni. E chi non ha il cognome giusto? Chi non ha il cognome giusto può beneficiare molto da processi di liberalizzazione. Al momento dunque il cognome conta più del voto di laurea, è incredibile. Quello che riusciamo a documentare è che il voto di laurea conta di più dopo processi di liberalizzazione. Torniamo ai nostri atenei. Per il QS World University Ranking, nessuna università italiana è tra le prime 100 al mondo. Per trovarne una occorre arrivare alla 183esima posizione con l'Università di Bologna.

promozione a professoressa. Tra i vari riconoscimenti internazionali, Chiara ha ottenuto la menzione tra i 10 scienziati under 40 più promettenti assegnata dalla rivista Popular Science per il suo lavoro di sviluppo di una lente acustica non lineare. Ed è qui in studio con noi Simone Gamba, 29 anni, assistente di ricerca presso il Dipartimento di Chimica del Politecnico di Milano. Buon pomeriggio, Simone. Buon pomeriggio a voi. Simone, vogliamo spiegare subito quale riconoscimento hai ricevuto quest'anno che in qualche modo lega la tua storia a quella di Chiara e per quale lavoro l'hai ottenuto? Allora, il riconoscimento che ho ricevuto è l'ENI Award, un premio assegnato annualmente dall'ENI, da una commissione scientifica internazionale per la tesi di dottorato in ambito energia rinnovabile, idrocarburi e protezione dell'ambiente. Come under 30, quindi come giovane... Come ricercatore under 30, come sì. Giovane promessa della ricerca. Esatto. E che effetto ti ha fatto ascoltare la storia di Chiara? E te lo chiedo perché tu stesso hai trascorso un semestre nel 2009 negli Stati Uniti alla Rutgers University. Allora, quanto è diverso il sistema di ricerca americano? Sicuramente nel sistema di ricerca americano si respira un'aria più rilassata anche per la presenza di fondi che possono supportare la ricerca, sia dal punto di vista di fondi pubblici che di fondi privati, mentre da noi c'è una grossa tensione sulla ricerca dei fondi, specialmente nel campo privato, visto che dal punto di vista pubblico i fondi scarseggiano. Tra poco ci arriviamo. La domanda che ti volevo però fare prima è: quali prospettive, guardando avanti, ti offre il sistema della ricerca italiana? Un ambiente nel quale pensi di poter programmare il tuo futuro? Ma è un ambiente nella quale io vorrei programmare il mio futuro. Per quanto riguarda la ricerca, credo che nell'ambiente italiano la prospettiva principale sia l'università. Difficilmente le aziende medio-piccole tipiche del sistema italiano possono offrire un futuro in ambito di ricerca. E qui arriviamo proprio al punto, anche perché una recente statistica ha proprio detto questo, cioè noi investiamo in ricerca privata 6 volte meno del Giappone. Le nostre imprese, il nostro tessuto imprenditoriale investe poco. Quanto invece una collaborazione tra università e imprese, secondo te, nel campo della ricerca applicata potrebbe portare in termini di benefici? Secondo me può essere fondamentale, in primis perché appunto l'azienda privata, normalmente una grossa azienda, ha delle infrastrutture che magari le università in Italia non possono avere per carenza di fondi, quindi ci può essere un ottimo scambio tra le idee che possono arrivare dall'università e magari delle prove pratiche o comunque di fondi o infrastrutture dall'azienda stessa. Gli stessi ricercatori impegnati nelle imprese private in Italia, il loro numero è cresciuto di appena il 14% tra il 90 e il 2008. In Francia nello stesso periodo è raddoppiato, in Spagna è triplicato. Solo 6 imprese italiane sono nella classifica delle prime 100 europee per investimenti in ricerca e sviluppo. Allora, dove va un paese così? Ha un futuro? Avranno un futuro i suoi giovani ricercatori, se sia il pubblico che il privato snobbano? Probabilmente il futuro di un paese del genere è incerto se non investe in ricerca in maniera pesante, sia dal punto di vista pubblico che dal punto di vista privato. Certo, dal punto di vista privato rimane il problema che la maggior parte delle aziende, essendo medio-piccole in Italia, non possono permettersi... Però facendo sinergia magari potrebbero. Facendo sinergia potrebbero, e soprattutto le grandi aziende che già ci sono devono continuare ad aumentare eventualmente gli investimenti in ricerca. Resterà in Italia, resteranno anche gli importanti riconoscimenti che hai ottenuto finora a farti scommettere sul nostro paese? A me piacerebbe restituire qualcosa a quel paese che mi ha formato, e credo mi ha formato in maniera veramente eccellente. Credo che la formazione universitaria italiana sia veramente buona. Mi piacerebbe perlomeno provare, tentare di rimanere in Italia, vedendo però quali sono appunto le prospettive future e anche l'evolversi della situazione, vista anche la recente riforma universitaria. Grazie a Simone Gamba. E per chiudere, domanda diritto a Chiara Daraio: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie d'uscita, a un espatrio? Di seguire i propri sogni e le proprie passioni, credere in se stessi e non darsi per vinti di fronte alle difficoltà. L'estero offre tantissime possibilità, basta tenere gli occhi aperti per trovare la strada migliore e essere pronti al cambiamento. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi torniamo in una città simbolo di questa ondata di espatrio, Barcellona, Mecca, pur nella crisi dei nostri giovani. Lo facciamo attraverso la consueta finestra mensile su Italians Online, la più grande comunità virtuale e non di italiani all'estero. Marco Barlocci, amministratore di IOL Barcellona, ci spiega quando è nata la sezione. Possiamo dire che nasce nel 2000 più o meno. Sono molti gli iscritti, diverse centinaia, però gli attivi sono molto pochi. Barcellona è una delle mete simbolo degli espatri dei giovani professionisti, sì, italiani. È ancora così nonostante la crisi? Sì. Sì, qui sono molto richiesti, soprattutto certe competenze. Ecco, diciamo quali, interessante. Molti, per esempio, lavorano con le banche, molti nel settore dell'informatica, diversi ricercatori in biologia, eccetera, ma ci sono anche molti traduttori, per esempio, interpreti, oppure persone che lavorano comunque con l'editoria. Di recente, per esempio, anche un farmacista. Perché i giovani italiani scappano dall'Italia e scelgono Barcellona per espatriare? Quello che ho sentito dire soprattutto è, diciamo, l'elefantiasi della società italiana. Mi raccontava questo ragazzo, per esempio, colui qui ci ha messo 6 mesi per aprire una farmacia, cosa che in Italia sarebbe stata impensabile. E lui diceva: io non ho voglia. Lui era passato prima in Irlanda e poi in Inghilterra e gli ha detto: no, a questo punto scelgo la Spagna perché mi va bene come clima, come società, come cultura, eccetera, e nello stesso tempo però è efficiente dal punto di vista burocratico. E cosa trovano a Barcellona al di là del lavoro? Una società molto accogliente nonostante tutto, poi trovano altri 22.000 italiani. Quindi una piccola Italia, ormai di fatto una colonia italiana potremmo dire, sì, che continua a crescere, sì, nonostante la crisi. Sì, perché molti fanno un calcolo molto semplice di sopravvivenza. Qui riescono a sopravvivere grazie a tutta una serie di servizi sociali, trasporti e così via, molto più facilmente che in Italia. E per chiudere, le attività invece di YOL, sì, Barcellona, ce le puoi riassumere? In genere sono situazioni ludiche e gastronomiche. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.italiansonline.net, sezione Barcellona. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle nostre discussioni settimanali che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Inviate le vostre lettere a giovanitalenti@radio24.it, le pubblicheremo sul web. Vi ricordiamo infine che all'interno del blog è attiva la piattaforma Matching e che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.